Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Andiamo. La trasmissione è conclusa, ringraziamo Walter per la regia, ringraziamo voi tutti per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, vi rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora.